ormai dal 2011 ci vede impegnati ad attraversare la storia del XX secolo, le pagine soprattutto della storia italiana, ma non solo europea, in particolare nel ciclo di conferenze di quest'anno. Volevo salutare i colleghi del Giochi, della Federico Castillo, i loro studenti e ovviamente le nostre classi del liceo. Questa iniziativa è un'iniziativa che vede la collaborazione dell'Istituto Storico del Risorgimento della Resistenza di Vicenza, dell'Associazione Nazionale Partigiani Sezione di Vicenza, dell'Associazione Volontaria per la Libertà e del Liceo. Il nostro ospite poi lo presenterà la professoressa Poncina degli Streghi, il dottore Eric Giobetti, che inaugura questo percorso sulla guerra civile europea. Un relatore che era mancato per motivi di salute lo scorso anno e al quale siamo davvero contenti di dare la parola per primo nel percorso dell'approfondimento di oggi su questa retrospettiva della storia del Novecento partendo da questa città dell'area balcanica da dove tutto è partito per quella prima guerra. Niente, Carlo, la parola a te per non rubare altro tempo. Il professore, come vedete, e ci tengo a dirlo apertamente, lo apprezziamo moltissimo, prima ancora per le sue parole, per il contributo di documenti, video, audio e video che ha portato attraversare questi nodi problematici fondamentali per la comprensione della storia della nostra Europa. Microfono. Saluto tutti a nome degli Streghi, volevo precisare che si chiama Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, non del Risorgimento, che sono i nostri vicini al museo. E il nostro istituto da anni, in collaborazione con questo liceo, con l'AMPI e con la UL, organizza questi cicli che hanno lo scopo di approfondire aspetti meno conosciuti della nostra storia del Novecento. Quello di cui si deve parlare oggi è particolarmente poco conosciuto. Enrico Vecchi, giovane storico, e mi fa molto piacere che sia un giovane storico, è uno dei pochi esperti in Italia delle vicende che sono accadute nel Novecento nella Jugoslavia. Avete visto il titolo Sarajevo 2014-1914. Ripeto, pur così giovane ha al suo attivo delle pubblicazioni importanti, poi lì ce ne sono alcune copie, e c'è il dittatore per caso, visto che hai portato dei tuoi, l'occupazione Lega, forse no, è esaurito, non c'è più, Alleati con il nemico, che forse la pubblicazione più nota, che l'ha pubblicato con La Terza, e che racconta, descrive, scava un aspetto veramente poco conosciuto, cioè l'occupazione italiana della ex Jugoslavia 1941-43, un'occupazione rimasta in ombra di un impero presuntuoso e maniloquente che concluse in maniera tragica, tragicissima le sue vicende, e comunque di tutto questo in parte potrà parlarvi il dottor Borghetti, e che ha anche realizzato per la televisione, più che ragazzi che siete abituati, se andate su YouTube, ha realizzato per la storia tre puntate sulla divisione dei Baldi, un'intera divisione di soldati italiani passati a combattere con i partigiani jugoslavi. E quest'estate, nei 100 anni di Sarajevo, ha girato, come si possono chiamare, docufilm, un film documentario insieme a un amico, ognuno dei due ha percorso esattamente nella stessa tempistica i tragitti di Francesco Ferdinando per giungere a Sarajevo e di Gabriele Principe, il suo assassino, uccisore, chiamiamolo come vogliamo, per arrivare al fatidico 28 giugno del 14, da cui tutto ha avuto inizio. È uscito questo film, è un film stramontano, quindi come vedete i nuovi storici hanno altre abilità, sono bravi come i vecchi a scavare negli archivi, a trovare documenti, a fare tutto, però allo stesso tempo li sanno proporre con le modalità che a voi ragazzi sono molto più consuete, quindi video, film, musica e tutto questo. Non rubo altro tempo, lascio parlare Enrico Becchi, sono sicuro che impareremo tutti un sacco di cose. Grazie ragazzi e grazie professore. Ciao ragazzi, ringrazio tutti i presenti, innanzitutto per avermi invitato e soprattutto però voi che siete qui, nonostante lo sciopero, ho visto i vostri colleghi nel corteo, non vi siete persi niente, non tutti gli altri, però comunque vi ringrazio di essere qui, spero che vi divertiate oltre a imparare cose nuove questa mattina. Dunque, di cosa parliamo oggi? Parliamo appunto di questi viaggi che abbiamo fatto quest'estate sulle tracce dell'attentato di Sarajevo di 100 anni fa e lo facciamo attraverso un percorso anche di immagini, di musica, eccetera. Il punto focale del nostro racconto è l'attentato di Sarajevo, 28 giugno 1914, l'attentato che in qualche modo dà inizio a quello che è stato definito dagli storici il secolo breve e che soprattutto dà inizio a quella che è stata anche definita la guerra civile europea, cioè non soltanto la prima guerra mondiale, ma un ventennio di stragi, di guerre e di grandi ideologie di massa che ha segnato inevitabilmente il Novecento, ma anche il tempo in cui viviamo noi oggi. Innanzitutto partiamo da questo: cosa è successo a Sarajevo il 28 giugno? Vi faccio vedere questo montaggio di immagini tratte dai 4 film realizzati sull'attentato di Sarajevo nel corso degli anni. Il primo film è del 1940, l'ultimo è del 1990. We'll be right back. e questo era l'inizio del trailer del nostro film, effettivamente. E ho tenuto anche il rewind, perché dà titolo anche al mio intervento del film, per dare il senso che a me interessa quello che è successo prima di questo giorno, non tanto quello che succede dopo. Quindi lascerò agli interventi che seguiranno nel corso di questo ciclo di lezioni di parlare anche di quello che accade poi nella prima guerra mondiale, quello che porta anche al conflitto. Ma in verità oggi parleremo di quello che accade prima, sostanzialmente. Quindi questo racconto non è tanto sulla prima guerra mondiale, ma è su quello che l'Europa alle soglie della prima guerra mondiale, quindi l'Europa della fine dell'epoca, no? Dell'epoca straordinaria che dopo 50 anni di pace in Europa porta poi al conflitto mondiale e appunto anche alla degenerazione dei 30 anni successivi. Questo evento è quello che è l'evento che causa questa serie di eventi successivi, e però è un evento che nella sua straordinaria importanza per la storia dell'Europa e forse anche del mondo è un evento incredibilmente casuale, cioè per cui è una serie di casualità e di circostanze di errori, di circostanze casuali che sono abbastanza impressionanti. Vi faccio solo provo a mantenere questa bella mappa mentre parlo. Vi faccio solo una serie un elenco di ragioni per cui questo evento è così casuale. Allora, innanzitutto la data che viene scelta è in qualche modo sbagliata, cioè l'intero scongarico che dal 1908 ha messo anche la Bosnia Erzegovina decide di mandare il suo erede al trono, Francesco Ferdinando, e quindi il numero due dell'impero, cioè la persona che dovrebbe diventare imperatore da poco, l'imperatore Francesco III ha più di 80 anni, è molto anziano, quindi si prevede che nel giro di pochissimo tempo diventerà lui l'imperatore, e va proprio in visita a Sarajevo, quindi il capoluogo di questa nuova provincia annessa da pochi anni, e ci va in che giorno? Proprio il 28 giugno, che è il giorno più sacro, del nazionalismo serbo. Il giorno che ricorda la battaglia di Kosovo, una battaglia del 300 combattuta dai serbi contro i turchi, ma che in ogni caso rappresenta un simbolo un po' per il nazionalismo serbo, che il nazionalismo serbo è in quel periodo storico il maggior nemico dell'impero scongalico, che è quello che più di tutti rappresenta il tentativo di scardinare quello che è l'impero in quel periodo. Quindi già la scelta della data è sbagliata. Non solo, ma i servizi di sicurezza austriaci non prestano nemmeno attenzione né a informazioni che li avvertono che si sta realizzando un attentato e nemmeno agli stessi attentatori che sono durante il giorno, tra l'altro sono sette ragazzi quasi tutti con meno di 20 anni, i quali sono tutti ricercati dalla polizia austriaca perché sono conosciuti come anti-asburgici, ma non vengono in nessun modo controllati nei giorni precedenti. Addirittura che abbiamo visto che l'attentatore dorme a casa di un amico che è ricercato la polizia e tiene sotto il letto una scatola con le bombe e le pistole che useranno il giorno dell'attentato. Non c'è nessun controllo in quei giorni e anche durante il percorso del corteo non c'è nessun tipo di controllo, c'è pochissima polizia lungo il tragitto e infatti gli attentatori agiscono sostanzialmente indisturbati. Dicevo, sono sette, di questi sette uno compie il tentativo di attentato prima di quello di qualche minuto prima, circa un'oretta prima, gettando una bomba sul quartiere, solo che colpisce la macchina successiva, quella di Francesco Ferdinando. Questo farebbe ragionevolmente pensare che a quel punto il percorso della visita ufficiale si interrompe e Francesco Ferdinando se ne torna rapidamente via. Invece no, cosa fa? Prosegue il tragitto, va al municipio che adesso è la famosa biblioteca di Sarajevo, che forse qualcuno di voi ha in mente, perché dopo la ripareremo, c'è questo incontro ufficiale e poi ripercorre il tragitto all'inverso. Invece di interrompere la visita ufficiale, la continua anche se il tragitto dovrebbe cambiare. Forse avete notato da quell'immagine dell'attentato che la macchina svolta e poi c'è il momento di arrivo sulla macchina e la vista fa marcia. Questo è un avvenimento realmente accaduto, cioè l'attentato sostanzialmente gratuita sul lungo fiume, invece di svoltare a destra verso il centro, che era il percorso originale, semplicemente hanno cambiato il tragitto. Peccato che non avessero avvertito l'autista, per cui l'autista invece di andare dritto svolta, c'è un momento di tensione, gli dicono no, ferma, devi fare la marcia, in quel momento casualmente la macchina si è fermata ed è ferma, quindi è anche molto facile colpire Francesco Bernardo, la macchina è ferma sull'angolo, proprio nel punto in cui c'era quello che inizia, perché tutto casualmente lui è lì in quel momento. A quel punto non può fare altro che tirare fuori la pistola e sparare. E qui l'ultima casualità incredibile, Gabriele Pinfri non ha fatto militare a 19 anni, non è un esperto di armi da fuoco, addirittura ha imparato a sparare poche settimane prima a Belgrado, in un parco della città di Belgrado, quindi non è plausibile che sbagli il colpo. Lui spara due colpi e con due colpi riesce ad uccidere Francesco Ferdinando e la moglie. Quindi è una precisione effettivamente quasi incredibile. Tutta questa serie di casualità, diciamo, che hanno fatto supporto agli storici e anche quest'anno ai polemisti, diciamo, politici che ne hanno discusso, hanno fatto ipotizzare un complotto, cioè l'ipotesi che questo caso Svegli non sia stato in qualche modo organizzato prima. Soprattutto, diciamo, da parte serra si ipotizza che il Berlusconi abbia in qualche modo volutamente sacrificato il proprio Albertone per poter fare la guerra contro la Serbia. Dall'altra parte si fanno ipotesi su, diciamo, servizi segreti deviati, li chiameremo oggi, cioè l'idea che all'interno dell'impero austro-ungarico ci fossero diversi poteri e che qualcuno avesse interesse a far fuori Francesco Ferdinando veramente oppure a entrare in guerra. In realtà è molto difficile stabilire se sia vero o meno tutto questo, perché sostanzialmente non abbiamo documenti originali di questo evento e di quell'epoca. E questo è il principale problema della ricerca su questa vicenda. Praticamente quasi gli unici documenti esistenti sono gli atti del processo a cui vengono sottoposti per loro utilizzi dei compagni dopo, ovviamente, dopo l'attentato. E questo è anche la motivazione per cui quest'anno, nonostante fosse il centenario dell'attentato di Sarajevo, praticamente non è uscito nessun libro nuovo sull'attentato di Sarajevo, che non c'è più niente da dire sostanzialmente. Adesso è banale dirlo, ovviamente non è esattamente così, la storia, la ricerca storica va sempre avanti, prosegue, ci sono nuove interpretazioni, però è difficile non avendo documenti nuovi riuscire a raccontare una storia in una maniera tanto diversa, per cui effettivamente non è avanzata molto la ricerca storica. I libri su cui si basano sostanzialmente anche le ricerche attuali sono degli anni 60-70 e sono grandi costruzioni fatte con gli unici documenti a disposizione. Questo per dire che effettivamente non sappiamo dire se ci sia stato davvero una sorta di complotto o meno. Quello che però possiamo dire è che le reazioni immediate a questo attentato all'interno del Berlusconi Greco non furono affatto reazioni che tendevano al conflitto, tendevano alla guerra. Ci si aspetterebbe, se fosse stato un complotto, se ci fosse un'intenzione di fare la guerra, questo fosse solo un caso belli, che immediatamente dopo si parlasse subito di guerra, o di punire la Serbia, o di attaccare la Serbia, cosa che invece non accade assolutamente. E questo ovviamente non vuol dire che senza questo attentato non ci sarebbe stata la guerra, anche questo non possiamo saperlo, effettivamente la guerra avrebbe potuto scoppiare in qualunque momento, anche negli anni precedenti, c'erano stati molti momenti di tensione tra i due stati, tra la Serbia e il Berluscongarico, e peraltro avrebbe anche potuto non scoppiare mai questo. Di nuovo è un gioco che gli storici magari si divertono a fare, ma non, consendo di poi è difficile fare storia. Dicevo, però le reazioni immediate sono, vi leggo due brani che secondo me danno molto il senso di quelle che sono le reazioni all'interno del Berluscongarico a questo evento. Una è una reazione, diciamo, del popolo. Francesco Ferdinando non era naturalmente amato tra la popolazione del Berluscongarico, e anche abbastanza personaggio abbastanza sconosciuto, tutto sommato, ma in ogni caso non era amato. E per cui la reazione del popolo non è affatto diciamo, di rabbia o di stupore o di fastidio, anzi, vi leggo appunto un brano letterario, in realtà di un romanzo di uno scrittore ceco, si chiama Hašek, e il libro si chiama Il buon soldato Schweig, e questa è la reazione del buon soldato Schweig a questa notizia. sicché ci hanno ammazzato Ferdinando, disse la Santesca al signor Spari, che avendo lasciato da qualche anno il servizio dell'esercito per essere stato dichiarato idiota dalla commissione medica militare, ora viveva vendendo degli orribili cani, libri di mostri dei quali combinava delle fittizie genealogie. Come se questa occupazione non bastasse, era affetto da reumatismi e proprio in quel momento si stava frizionando i ginocchi. Quasi Ferdinando, signora Müller, domandò Schweig, senza cessare di massaggiarsi i ginocchi. Io conosco due Ferdinandi, il primo è commesso da Boghiere Truscia, che una volta si deve per sbaglio una lotta in deliberazione per capelli, e poi conosco anche Ferdinando Cocoscia, che raccoglie lo scherzo di cane. Per tutti e due non sarebbe gran male. Ma no, signore, lasci Luca Ferdinando, così grosso e così religioso. Oh, Gesù Maria, esclamò Schweig, questa sì che è bella. E dove è capitata questa faccenda all'arciduca? Gli hanno sparato addosso a Sarajevo, con la lingua autentica, signor mio, mentre stanno andando in automobile con l'arciduchessa. Guarda un po', in automobile, signora Müller. Un tale si permette l'automobile e non va certo a pensare che una girata in automobile va alla fine così male. E come se non bastasse ciò la capitata a Sarajevo. È evidente, insomma, l'ironia e il disinteresse della cosa. Vi leggo un'altra citazione che invece è fatta dal Corriere della Sera del 29 giugno, cioè del giorno successivo, che è una ricostruzione di come reagisce Francesco Giuseppe, cioè l'imperatore, alla notizia. E è interessante perché già che sia vero o meno, presumibilmente falsa, nel senso che ho dubito che il corrispondente del Corriere della Sera fosse a casa di Francesco Giuseppe il giorno della notizia dell'attentato, ma però nel senso di qual è stata la reazione ufficiale, diciamo, dell'imperatore e dell'impero austro-ungarico immediatamente dopo la notizia. Il vecchio monarca stava facendo un'azione quando il suo aiutante, Conte Par, che si era assunto il doloroso incarico, entrò nella stanza. Francesco Giuseppe capì subito dal volto del conte che doveva essere successa qualche orribile disgrazia. Quando l'aiutante gli ebbe esposto il contenuto del primo dispaccio ufficiale, il vecchio imperatore rimase sbalordito e dal principio non seppe rispondere nulla. Poi, alzandosi, si diede a percorrere la stanza in lungo e in largo, ripetendo continuamente: è orribile, è orribile, a questo mondo non mi è stato risparmiato nulla, il più umile dei miei sudditi non ha dovuto superare in vita sua tante tempeste. E gli occhi del monarca si riempirono di lacrime. Poi, con un gesto, licenziò l'aiutante, rimanendo a piangere solo nella sua stanza. Ora, evidente, appunto, di là del sia vero o falsa questa reazione, però è una reazione molto intima, molto personale, non è una reazione di uno Stato pronto a fare la guerra per questa ragione. Ecco, tuttavia, al di là del fatto che questo evento è molto casuale e che forse pur essendo appunto il caso Svelli conosciuto molto in tutto il mondo, non è, avrebbe potuto ovviamente non essere la motivazione principale per il conflitto, tu devi dire che questa vicenda e soprattutto la storia dei due viaggi appunto, che abbiamo ripercorso quest'anno hanno molto da raccontarci, ci parlano di un'Europa di 100 anni fa che in fondo per molti versi è anche simile alla nostra, è un'Europa in pace, un'Europa in un periodo di grande progresso economico ma anche sociale e culturale, e un'Europa però sempre in vivo, sempre a rischio di un conflitto, di ricadere in una spirale di violenza. E intanto vi faccio vedere le immagini. Dei luoghi che noi abbiamo riattraversato la strada dopo 100 anni, queste immagini d'epoca, i due percorsi ovviamente nella mappa che è stata data, per cui queste immagini si riferiscono proprio alle località attraversate dai nostri due protagonisti in quel periodo. E intanto volevo leggere un'altra citazione che è di Stephen Schweig, che è un grande scrittore austriaco di quell'epoca, che peraltro morirà suicida nel corso della seconda guerra mondiale in esilio fuori dalla sua parte. E lui proprio parlando di quell'epoca scrive una frase che è anche ormai cantata famosa, che però mi piace ripetere, dice: una meravigliosa spensieratezza si era diffusa per il mondo. Chi poteva interrompere questa ascesa? Chi poteva calcolare l'impulso che nel suo slancio rivelava sempre nuove energie? Mai l'Europa fu più forte, più ricca, più bella, mai credette più profondamente in un futuro ancora migliore. E era proprio un'epoca di grande sviluppo economico e anche appunto, diciamo, culturale, sociale, di cui in qualche modo l'impero Ascolcarico era uno dei fulcri, uno dei centri di questa Europa. L'impero Ascolcarico, come potete vedere dalla vostra mappa, rappresentava una parte consistente dell'Europa dell'epoca. Una parte consistente anche dell'Unione Europea di oggi, in qualche modo un pezzo significativo dell'attuale Unione Europea. E all'epoca era Vienna in particolare, la tappa di partenza di Francesco Ferdinando, era una grande capitale europea, contava 2 milioni di abitanti, considerate che adesso ne ha Vienna a 1.600.000 abitanti, quindi ha meno abitanti oggi di quanto ne avesse 100 anni fa. Cent'anni fa era appunto una grande capitale europea, una grande capitale anche del progresso, ma soprattutto della cultura. A Vienna in quegli anni c'erano grandissimi artisti, grandissimi intellettuali, grandissimi scrittori, non solo Stefan Zweig, ma anche ad esempio Joseph Roth come scrittore, c'era Klimt, un grande pittore, c'era Freud, insomma c'erano veramente elementi più brillanti d'Europa in quegli anni a Vienna. Peraltro di questi anni c'è anche Adolf Hitler, quindi l'altra parte della medaglia, diciamo, è una città comunque difficile, una città di anche un'ampia fetta di sottopopolarità del urbano, che faceva fatica a sopravvivere. E Vienna era la capitale di un grande impero multiculturale, multinazionale. Questo è l'inno ascolcarico. Qualcuno di voi ha riconosciuto la melodia? L'inno tedesco, bravissimo, esatto, è proprio l'inno tedesco. Cioè il l'inno ascolcarico dell'epoca è quello che attualmente è l'inno tedesco, e per un strano incrocio di vicende, sostanzialmente l'autore dell'inno tedesco aveva scritto le parole sulla musica dell'inno ascolcarico dell'epoca, perché all'epoca la Ungheria rappresentava il più grande territorio di germanofono esistente. Quindi avevo utilizzato la melodia dell'inno ascolcarico per comporre l'inno tedesco. Poi l'inno ascolcarico, ovviamente, dopo la prima guerra mondiale, la Sovietica non esisteva più, la Repubblica Austriaca ha scelto un nuovo inno e quindi quella melodia è rimasta poi per l'inno tedesco. E l'impero ascolcarico era un grande impero multinazionale, multiculturale, dove pensate, esistevano 12 lingue ufficiali, in qualche modo questa mappa rappresenta un po' tutte le principali nazionalità esistenti all'interno dell'impero ascolcarico, e quindi anche in questo senso il parallelismo con l'Unione Europea di oggi è molto significativo. Esisteva all'interno del Parlamento di Vienna, era possibile fare interventi pubblici in ognuna delle 12 lingue. Tra l'altro la versione dell'inno che abbiamo sentito è la versione italiana, che inizia con le parole Serbi Iddio Lauster. Tra l'altro è curioso che la prima parola sia proprio Serbi, non si era mai finito l'intero, insomma, è un cattivo augurio, però in ogni caso c'era una versione del libro in ognuno dei 25, appunto gli interventi pubblici al Parlamento, così come nel Parlamento europeo di oggi, era possibile farli ognuno nella propria lingua, quindi la differenza, direi anche di sostanza, se vogliamo, è che nel Parlamento serbo non c'era la traduzione simultanea, per cui non si capiva, cioè. Cioè, questi interventi, queste descrizioni molto spassose, interventi filmati due o tre ore in ucraino, piuttosto che polacco, che nessuno ascoltava perché tanto non si capiva niente. Però in ogni caso, a differenza di altre realtà multinazionali dell'epoca, ripeto, mi faccio riferimento in particolare agli imperi diciamo, che controllavano interamente l'Est Europa prima della prima guerra mondiale, ovvero l'impero russiano, l'impero russo e l'impero ottomano, oltre all'impero fungarico. Ecco, a differenza di altri imperi, sicuramente c'era una tolleranza, un rispetto verso le culture minoritarie, comunque meno importanti all'interno dell'impero, molto significativo, anche solo il fatto che fosse consentito appunto parlare della propria lingua e intervenire anche pubblicamente nella propria lingua. Ciononostante il problema, uno dei tanti problemi, forse il principale problema dell'impero fungarico, dell'epoca, era proprio il rapporto con le proprie minoranze nazionali. L'Ottocento, sapete, è l'epoca dei nazionalismi, il grande successo dell'idea di nazione, dell'idea di costituire degli stati nazionali, che porta nell'Europa occidentale a creare stati nazionali, oltre a quelli che già esistevano, Francia, Spagna, eccetera, ma anche l'Italia, come sapete, e anche la Germania nel corso della seconda metà dell'Ottocento. Ovviamente questi idee nazionali erano molto presenti e molto forti anche nell'Est Europa, e quindi l'idea di costituire stati nazionali era molto, molto presente. Alcuni di questi stati si erano già formati, ad esempio appunto la Serbia, come anche nel caso della Serbia, aspiravano ad allargarsi per includere nei loro territori popolazioni dello stesso ceppo linguistico e culturale, insomma, che si rifacevano a quell'idea di nazione. Questo è il problema che era molto presente nell'impero sovietico, era presente diciamo, nell'agenda politica di chi governava l'impero, naturalmente anche in quello di Francesco Ferdinando. Viene spesso attribuito a Francesco Ferdinando l'ipotesi realista, ovvero sapere che l'impero austro-ungarico era un impero bicefalo, cioè univa due regni, diciamo così, quello di Austria e quello di Ungheria, in un'unica colonna di Asburgo. La sua idea, lui era fortemente anti-ungherese, e la sua idea di distribuire l'idea realista, ovvero quella di costituire un terzo elemento, che è quello slavo, cioè fare riferimento alla popolazione slava, che era molto presente nell'impero, una presenza demografica molto significativa, anche perché la moglie era di origine ceca. In verità il suo progetto politico più che noi facciamo più convintamente era questo che vediamo adesso, ovvero quello che si chiama gli Stati Uniti della Grande Austria, cioè l'idea di costituire gli stati nazionali sotto comunque il controllo della corona asburgica, seguendo le linee che secondo le mappe etniche dell'epoca sarebbero state gli stati nazionali. Però mantenne unito l'impero in questa logica lui ebbe così anche proprio per la sua esperienza di viaggio negli Stati Uniti. Francesco Ferdinando aveva compiuto un viaggio in tutto il mondo, aveva fatto il giro del mondo tra 1892 e 1893, aveva anche attraversato coast to coast gli Stati Uniti in treno e gli era piaciuta questa idea degli Stati Uniti e per cui l'aveva importata nell'ipotesi di riforma dell'impero austro-ungarico. Io sinceramente non penso che questo progetto potesse avere un grande futuro, però ovviamente il signor di voi che dice guarda, se fosse sopravvissuto magari sarebbe andata diversamente. Nel frattempo sentiamo dei protagonisti. Invece è quello che è poi diventato l'inno jugoslavo, che all'epoca era un inno composto da un compositore ceco, un inno panslavo, cioè di diciamo, rivolta ai popoli slavi, in particolare per gli sergenti all'impero sungarico, appunto in un'ottica nazionale, ma non come la intendiamo oggi, peraltro oggi l'idea di nazionalità, soprattutto per quello che si deve usare, è legata ai singoli stati nazionali che oggi esistono, quindi gli sloveni, i croati, i serbi, eccetera. All'epoca, in verità, la distinzione tra, o meglio, l'idea nazionale, l'idea di comunità nazionale era molto più ambigua di oggi, molto più fluida, per cui era molto facile trovarsi a considerarsi al tempo stesso sloveni, ma anche jugoslavi in senso nazionale, ma anche slavi in senso generico, ma comunque con una forte identità slava, panslava, appunto si diceva all'epoca. E quindi questo inno, che è stato composto da un compositore ceco, in realtà diventa in qualche modo l'inno di liberazione dei popoli slavi in generale e dei popoli jugoslavi in particolare, appunto addirittura diventa l'inno jugoslavo negli anni 70 del Novecento. Mentre andavo avete visto delle mappe che in qualche modo io definisco le mappe ambientali di Gabriele Quinzi, cioè se Francesco Rendiardo ovviamente il suo mondo era quell'impero sconcario che andava riformato, possibilmente in quella versione di Stati Uniti comunque di tipo autoritario, cioè un imperatore che controlla, dall'altra parte Gabriele Quinzi è ovviamente uno stato jugoslavo che che però fosse in qualche modo una diciamo che fosse che nascesse dall'impulso dato dal grande espansionismo che la Serbia stava avendo in quegli anni. Questa mappa che ho tenuto mostra come nelle guerre balcaniche, che forse sapete si sono combattute tra il 1912 e il 1913, quindi immediatamente prima gli eventi di cui stiamo parlando, contro il Proto-Ottomano prima e poi tra i vari paesi che avevano combattuto contro, poi combattono Roma, Croato, Grecia, Bulgaria, Romania e Serbia, e Montenegro. Ecco, alla fine delle guerre della Carica la Serbia si trova ad aver raddoppiato il territorio, includendo tutta questa parte più grossa, più chiaro, diciamo, con un aumento degli abitanti di circa il 60%. Quindi un grande successo, un straordinario successo militare. È una grande espansione della Serbia, che quindi induce almeno una parte dei poteri serbi a pensare di continuare questa espansione sull'onda di questo successo in direzione invece questa volta dell'impero austro-ungarico, quindi possibilmente includendo l'intera Bosnia e anche poi l'interno dei confini austriaci. Io dico, parlo di una parte dei poteri perché secondo me è importante capire che noi siamo un po' abituati a pensare, non so, l'Italia fa questo, la Serbia fa quello, in verità in qualunque Stato, per quanto sia, possa essere uno Stato dittatoriale o autoritario, ci sono tanti poteri che agiscono, si muovono e hanno la possibilità di fare cose. Nel caso della Serbia in particolare c'erano tanti centri di potere, c'erano ad esempio quelli di cui stiamo parlando adesso, erano principalmente i servizi segreti militari che avevano interesse a suscitare in qualche modo un guerra, un conflitto per appunto un'ulteriore espansione serba. Dall'altra parte però c'era il re serbo che aveva meno era molto più cauto, teneva molto di più per l'integrità dello Stato serbo per un conflitto, nel caso di un conflitto contro un Stato così potente come era la Serbia dell'epoca, e c'erano altri centri di potere naturalmente che sì. Che prendevano anche decisioni importanti. Questo anche per dire che i ragazzi che compiono l'attentato hanno rapporti con questi servizi segreti militari serbi, ma non sono esattamente una nazione dei servizi segreti militari serbi. C'è un'ambiguità di fondo nella storia in questa vicenda che è molto simile a quella del risorgimento italiano. Io penso che probabilmente molti di voi, per tutti voi, abbiamo studiato magari molto di fresco quello che è il risorgimento italiano, l'unità d'Italia, no? C'è un sicuramente l'unità d'Italia c'è un'ambiguità tra quello che vorrebbe fare il re Vittorio Emanuele II, che sostanzialmente è un obiettivo di espansione dello Stato sabaudo, ma che non pensa, non immagina nemmeno di unificare tutta l'Italia, di conquistare tutto il meridione, ad esempio. Che viene un po' forzato dall'attivismo di Garibaldi, di Marziniani, che invece portano poi all'unificazione dell'intero paese sotto la corona sabauda. Infatti succede molto in maniera molto simile anche in Jugoslavia, cioè da una parte c'è la colonna serba che ha intenzione di espandersi, certo è in una fase di espansione del territorio, ma che non pensa di unificare tutti i popoli slavi del sud in uno stato, o comunque lo immagina come un obiettivo molto lungo termine, e dall'altra ci sono invece dei circoli attivisti molto radicali che vorrebbero creare uno stato jugoslavo unito. Questa ambiguità ha anche a che fare con le differenze culturali nazionali che ci sono in quell'area, per cui se da una parte i nostri attivisti radicali che fanno capo a una piccola organizzazione si chiama la Giovane Bosnia, anche poi il riferimento all'Italia è molto evidente, no? La Giovane Italia, la Giovane Bosnia, Gabriele Principe appartiene a questa organizzazione, pensano a uno stato jugoslavo che includa appunto tutti i territori che poi hanno davvero fatto parte della Jugoslavia, con ovviamente una prospettiva di rispetto, di convivenza reciproca, che ha fatto parte comunque di cultura e religione differenti, ci sono i musulmani, ci sono i serbi, gli ortodossi, ci sono i cattolici, eccetera. Dall'altra c'è un espansionismo serbo che invece ha in mente la grande Serbia, quella che poi negli anni 90 è tornata in auge, no? Come nel senso dell'espansionismo del territorio serbo sotto la corona serba, e includendo appunto principalmente la Bosnia, dove la corona femminista, ma si può ragionevolmente sostenere che in fondo sono tutti serbi o comunque sono simili serbi. E questa ambiguità è, dicevo appunto, molto simile a quella che accade nel risorgimento italiano, ed è il riferimento al risorgimento italiano è molto presente, non solo nella giovane Bosnia, ma anche i servizi segreti serbi, come vi dicevo, hanno un'organizzazione segreta al loro interno che si chiama la Mano Nera, con riferimento alla carboneria, no? Nera perché maneggia il carbone, e il cui giornale si chiama Piemont, cioè Piemonte, quindi vedete che i riferimenti all'Italia sono molto evidenti. Andiamo a vederci. Amati della poesia, scrivevano anche loro poesie, perché loro pensano ha scritto poesie fino all'ultimo giorno prima di morire in carcere nella Repubblica Ceca, nella Repubblica Ceca Terezin è morto per un periodo di campi di concentramento nella Seconda Guerra Mondiale. Ed erano oltretutto appunto molto fedeli a questo obiettivo ideale e sacrificavano tutto questo alla loro vita, per cui non bevevano, non fumavano, non avevano rapporti sessuali di nessun genere, erano veramente della sorta di ascesi della rivoluzione, della liberazione del loro paese. E d'altra parte non erano, adesso noi, come dico, spesso c'è stata una sorta, in questi 100 anni, una sorta di balcanizzazione dei Balcani, cioè i Balcani sono più lontani dal nostro immaginario oggi quanto non fossero 100 anni fa. Alla fine 100 anni fa questi ragazzi erano ragazzi che vivevano nel cuore dell'Europa, cioè Belgrado non era come oggi ce li immaginiamo un posto l'Aster, dunque in fondo ai Balcani, era periferia della media Europa, sostanzialmente la seconda lingua era il tedesco, tutti i ragazzi andavano a studiare nell'università dell'impero austro-ungarico, si facevano affari, il principale partner commerciale della Serbia era comunque l'impero austro-ungarico, i rapporti erano prospetti, pur essendo due paesi sostanzialmente in conflitto, quasi in guerra fredda da molti anni, Serbia e Austro-Ungheria. Vi faccio solo un esempio per capire com'è la situazione allora e come è diversa oggi. Questo non l'ho detto, da Belgrado sono partiti in tre, erano in 7 sul luogo della tentata, ma sono partiti in tre da Belgrado, tutti e tre meno di 20 anni. Due di loro, compreso Gabrino, hanno attraversato il confine tra Serbia e Austro-Ungheria, che era attraversato dal fiume Drina, di notte su una barca, di nascosto, portando le bombe, le armi, eccetera. Il terzo ha passato il confine normalmente alla frontiera, mostrando la testa universitaria di un altro, cioè nemmeno il suo documento di identità, peraltro un documento di identità ridicolo al giorno d'oggi, insomma, la testa universitaria di un, non sua, ma di uno dei due che tanto stava passando con le bombe dall'altra parte. E non ha avuto nessun problema alla frontiera. Ora, pensando a quello che è oggi la fortezza Europa, mi sembra incredibile non immaginare che 100 anni fa si entrava in Europa comunque in un paese quasi nemico in questo modo così semplice. E d'altra parte cos'era la Bosnia dell'epoca? La Bosnia appunto era un paese che era stato annesso definitivamente, perché non era occupato di fatto nel 1878, ma era stato annesso definitivamente dall'Austro-Ungheria nel 1908, ed era in qualche modo un'occupazione che era stata di fatto un'occupazione militare per 30 anni, si era trasformata in un dominio che però era un dominio di tipo molto coloniale, cioè molto simile a quello che sono le colonie, era gestito, amministrato proprio in maniera coloniale ed era vissuto dalla maggior parte della popolazione come un dominio coloniale, un dominio imperialista su proprio territorio, appunto anche per la grande gestione dei mondiali nazionali di cui parlavo prima. Però dall'altra parte l'impero austro-ungarico in Bosnia promuove uno straordinario progresso culturale, sociale ed economico in quegli anni. Oltre a, anche questo lo si vede anche visivamente, andando nelle città bosniache oggi, in particolare a Sarajevo, si possono vedere quantità straordinaria di palazzi bellissimi, molto imponenti, costruiti dietro la Austro-Ungarica, ma anche tutto la grande la fortuna di appartenere a un impero così vasto consentiva un aumento dei traffici economici molto forte. Sarajevo è diventato un centro commerciale significativo negli anni dell'impero austro-ungarico. Idice, che è una specie di parco termale alla periferia di Sarajevo, è diventato una delle terme più frequentate all'interno dell'impero austro-ungarico. Francesco Ferdinando e la moglie dormono ed era un luogo che si frequentava abitualmente. La città di Mostar era diventato un luogo importante anche dal punto di vista, ad esempio, educativo. Erano stati creati una serie di licei molto all'avanguardia, tra cui quello di Mostar era uno dei più famosi. E poi appunto questo anche a che fare con il progresso sociale, con il progresso culturale, per cui anche rispetto alla tolleranza rispetto alle differenti religioni e culture, sicuramente era stato un passo in avanti rispetto all'impero ottomano, che perché da, in teoria rispettava la presenza di religioni diverse, ma di fatto c'era una differenza tale di tassazione, diciamo, tra musulmani e musulmani, per cui è tendenzialmente portato a convertirsi all'Islam per dire meglio. Lo resto per due minuti, poi parleremo un giorno della vostra ottomana. Arriviamo finalmente, vedo che già siete un po' stanchini, e allora arriviamo finalmente a Sarajevo. Per queste diverse realtà. appunto sarei io che ho dato ospitalità, quasi riferimento agli ebrei, ho dato ospitalità agli ebrei fuggiti dalla Spagna cattolica alla fine del 400, ed è credo l'unica città, non a caso, l'unica città d'Europa, non a caso viene definita spesso la Gerusalemme d'Europa, l'unica città d'Europa dove nell'arco di poche centinaia di metri potrebbe trovare due sinagoghe, una chiesa cattolica, una chiesa ortodossa, una serie di moschee e all'epoca anche un grande tempio evangelista, cioè una chiesa prestata. E quindi sì, da una parte ovvio, l'ovvio che vuole, che è presente, ma dall'altra anche la incredibile convivenza, la capacità di vivere insieme, nonostante le culture, le religioni differenti. E infatti leggo un'altra citazione di uno scrittore bosniaco che dice: Sarajevo è diventata metafora del mondo, il luogo in cui differenti volti del mondo si sono raccolti in un punto, come nel prisma si concentrano i raggi di luce dispersi. Un centinaio di anni dopo la fondazione, la città ha raccolto uomini di tutte le religioni monoteistiche e delle culture da queste derivate, innumerevoli lingue diverse e forme di vita che queste lingue contengono in sé. È diventato un microcosmo, centro del mondo, che, come ogni centro, secondo l'insegnamento degli esoterici, contiene tutto il mondo. E sì, io penso che Sarajevo sia davvero un po' questo, una metafora del mondo, e in fondo non è un caso che quell'attentato sia capitato proprio a Sarajevo, forse questa è l'unica cosa che non è casuale. E Sarajevo è veramente un simbolo straordinario di quello che è la storia dell'Europa, in fondo, nel Novecento, che è una storia davvero di convivenza straordinaria, ma anche di violenza straordinaria. E quindi in questo senso Sarajevo è veramente il cuore d'Europa con tutte le sue contraddizioni, ancora oggi. E infatti ancora oggi noto spesso che, come dire, non è un caso che mentre di solito gli attentati politici prendono nome dalla vittima, no? L'attentato a Kennedy, insomma. In questo caso l'attentato di Sarajevo, cioè non viene ricordato Francesco Ferdinando, alla fine un personaggio relativamente insignificante, un eterno promesso imperatore non diventerà mai, quindi, e infatti non ha come dire, una memoria, non c'è una memoria collettiva, un immaginario collettivo che faccia riferimento a Francesco Ferdinando nell'immaginario europeo. Noi quest'anno abbiamo proprio percorso questi tragitti intervistando storici, ma anche persone normali, passanti, chiedendo di questi due personaggi, di questi nostri due protagonisti, e abbiamo notato come anche in Austria non ci sia nessuna memoria di Francesco Ferdinando, non è un personaggio conosciuto. Forse l'unica cosa che lo rappresenta a livello internazionale è la band che prende il suo nome, Franz Ferdinand, di cui prima abbiamo sentito un pezzo, tra l'altro poi ci sono le referenze dei pezzi che ho messo, se vi piacciono, io nel tempo libero faccio anche il DJ, quindi insomma. Quindi Franz Ferdinand, che è quello che sono andato sul loro sito, le ragioni per cui si sono chiamati Franz Ferdinand, ed è estremamente interessante e conferma un po' questa mia impressione che non sia un personaggio che ha una credenza dell'immaginario collettivo, sebbene, ripeto, la sua uccisione ha dato vita a quello che probabilmente sono 30 anni più significativi della storia, forse dell'umanità in generale. Ecco, loro dicono, raccontano che hanno scelto questo nome perché a un certo punto siamo messi a discutere su chi era quello che era stato ucciso a Sarajevo, nessuno di loro si ricordava, avevamo più o meno la nostra età, e poi insomma, uno ha detto, ma sì, Franz Ferdinand, alla fine sono andati a casa a controllare questo sull'enciclopedia, e il risultato che era proprio Franz Ferdinand, allora gli è piaciuto questo nome, ha detto, ma sì, chiamiamoci così. E quindi siamo proprio anche lì, è evidente come non sapessero precisamente chi era, gli sono piaciuto il nome. E dall'altra parte abbiamo un Gabriele Pinzio che ovviamente forse per noi è anche meno conosciuto, ma che ha un invece nel mondo Slavo, Cosimo Slavo, diciamo, è un personaggio significativo, ha un suo, una sua mitologia, diciamo così. È un personaggio che diventa, viene incarnare, al di là della sua realtà storica, viene incarnare degli ideali, dei sogni, delle idee che appunto vanno al di là di quello che realmente era il personaggio storico. Ora sostanzialmente è quello che viene visto e interpretato come un eroe del nazionalismo serbo, cioè un martire del nazionalismo serbo, come se lui avesse avuto l'obiettivo, appunto, come dicevo, dell'espansionismo serbo, che invece non era il suo scopo, ma il suo scopo era quello dell'unificazione di Jugoslavia. Peraltro lo dico come fonte, nel senso che sostanzialmente la prima dichiarazione ufficiale che lui fa appena catturato dice: io ho fatto per l'ideale di Jugoslavia, per unirlo di Jugoslavia. Quindi non è più un eroe di Jugoslavia, ma è un eroe serbo, e in qualche modo viene appunto mitizzato, per cui appunto quest'anno ripercorrendo la gente, vedendo le celebrazioni, abbiamo trovato da una parte, questo è solo uno dei tantissimi esempi, hanno fatto quest'anno statue, monumenti a livello che questo è il mosaico che peraltro ha fatto in parte una mia amica di Belgrado, stupendo, che rappresenta tutti gli attentatori per il testo di quel giorno, con la scritta sotto il cilindro, l'ultima poesia scritta da Gabriele Prinzi per più di una dire, e un mosaico di 40 metri quadrati, quindi una roba abbastanza significativa, fatta in una città della Bosnia, della parte serba della Bosnia, e dall'altra parte, qua a Sarajevo, nel luogo dell'attentato si celebrava con questa roba, questa roba non so in dettaglio, ma era un'associazione di nostalgici del libro ungarico che si chiamava l'associazione Giallo Nera, perché Giallo Nera era un problema del libro ungarico che sostanzialmente riproponeva il mito dell'impero ungarico, come vedi. Da una parte non è il Francesco Ferdinando, ma il mito però dell'impero ungarico come in qualche modo appunto una realtà di straordinaria convivenza, tolleranza reciproca tra i popoli europei, che quindi dovrebbe essere in qualche modo ad esempio, come dovrebbe essere portata come esempio per l'Unione Europea di oggi, però una realtà mitizzata, perché quello che dicevo prima non era esattamente così, e dall'altra di nuovo una personalità mitizzata di un eroe del nazionalismo serbo, però in qualche modo incarna anche oggi, una scelta di fa, un tentativo di resistenza verso questa uniformazione rappresentata dall'Unione Europea, ma soprattutto direi verso una sorta di colonialismo, di imperialismo culturale e economico che cent'anni fa era rappresentato dall'Impero Sovietico, ma oggi è rappresentato in qualche modo dall'Unione Europea germanocentrica, non virata dalla Merkel, dalla Germania, come in qualche modo nemico dei piccoli popoli, delle piccole nazioni che faticano a resistere in questa Unione Europea così economicamente incentrata sulla Germania. A proposito di questi miti, queste i miei presidenti, mi hanno pensato in questo pezzo, che mostra appunto delle immagini diciamo significative di questa immagine pop, se vogliamo, di Gabriele Prinzi. Di Gabriele Prinzi. Il proiettare le cose Bene, io per ora ho finito.